Radio Cerrano presenta The Musical Box, programma di musica rock curato da Emidio, Piero e Carlo, che rovista tra la musica del passato e del presente. Beh, che dire, lo stacchetto ha detto tutto, l'introduzione è quella giusta. Ben ritrovati, Musical Box, dobbiamo solo far capire che siamo in diretta, è vero? Che la triade è sempre, si è ricomposta. È sempre più compatta. Naturalmente il vocione che sentite e che così è alla mia destra è quello di Piero, invece ancora alla mia destra, non nel caso destra del padre, ma la destra del microfono, dello speaker, c'è Emidio. E naturalmente che c'è di nuovo in questa scatola musicale? C'è di nuovo che stiamo facendo un promo per Facebook, quindi siamo in diretta Facebook. Naturalmente questo è un amo che noi lanciamo nel grande lago della comunicazione dei social attraverso Facebook, appunto per dirvi che se volete, poi considerando che Facebook blocca tutti i pezzi per questione di diritti eccetera, quindi non ce lo potremmo permettere di andare in diretta su Facebook, potete poi tornare da noi, seguirci attraverso il nostro sito e in questo caso ritorneremo ed essere radio allo stato puro, è vero? Concordo in su pieno. Facebook abbiamo messo il link, l'occasione per augurare buon anno alla nostra community di radio ascoltatori. Auguriamo un buon anno. Sta parlando il regista. Prego. No, ho detto che sulla diretta Facebook abbiamo messo il link per seguire la diretta radiofonica. Adesso a voi il microfono. Io non mi vedo. Allora, riaccendiamo i motori. No, che stavi dicendo? Che colgo l'occasione per augurare sempre un buon anno ai nostri radioascoltatori, che sia un anno di aspettative migliori dell'anno precedente. Okay. Beh, le aspettative, sì, di solito le aspettative sono sempre buone, no? Bisogna vedere se si concretizzano. Poi bisogna fare i consuntivi alla fine. Siamo passati alla radio? Siamo passati alla radio? Eccoci. Sì, accenna con la testa. Bene, dal di là del vetro che non c'è, siamo passati alla radio. E passiamo quindi a chi? Allora, io chi oggi... Chi è che prende la parola? Sono io. Alza la mano allora. Ok, eccoci. Oggi facciamo tappa in Italia. Tappa in Italia. Ah, finalmente! Alla riscoperta di un genere musicale con cui ci siamo inebriati, cullati piacevolmente negli anni 70, no? Per noi che siamo più vintage, ma tantissime sono ancora oggi un numero spropositati di sviscerati cultori rimasti ancora legati, folgorati a questo filone musicale senza tempo. Parliamo del rock progressivo made in Italy, con una formazione che sono stati esponenti di spicco di questo genere ormai inestirpabile, l'unica a ottenere successo fuori dai confini nazionali, vale a dire la premiata Forneria Marconi, che insieme al Banco del Mutuo Soccorso, Stormy Six, Area, Acqua Fragile, Orme, New Trolls, Osanne e quant'altro hanno caratterizzato un decennio indelebile nella memoria collettiva. Nati come gruppo beat, si chiamavano I Quelli originariamente, per poi evolversi dopo la scissione in premiata Forneria Marconi, con l'abbandono poi del chitarrista Radius, che passò alla Formula 3, un chitarrista di grande spessore, che appunto entrerà poi nella Formula 3, ma soprattutto poi con l'arrivo di Mauro Pagani nel 70, polistrumentista di razza, che si creano le condizioni per una svolta radicale. No, ti faccio una domanda. Prego. Ma perché premiato Forneria Marconi? Ah, questo. Tu che sei. Tu sicuramente avrai no, già. No. Era proprio. Avevano preso questo nome. Esatto. Ah, sì. Adesso. forse da una premiata che abbiamo colto impreparato. si erano ispirati a una, non so se era una sorta di era una fabbrica? No. Beh, credo di sì. Era una forneria? Sì, aspetta. Vabbè, cercheremo anche di... Colma questa... Dai, Carlo. Allora, di dare questa informazione. No, perché credo che è una domanda che si sono fatti moltissimi, no? Allora, intanto il nome è stato in qualche modo non imposto ma suggerito in maniera poderosa da Mauro Pagani. Perché? Perché era un gruppo in cui aveva suonato precedentemente lui. E comunque è il nome di un negozio, di un fornaio, praticamente, che hanno preso a prestito... per lanciarsi in qualche modo. Diciamo che è successo un po' quello che è successo con gli Everything But The Girl. Anche qui è un nome di un negozio, tutto quanto eccetto la ragazza, un negozio londinese dal quale hanno preso spunto per poi dare, certo. Io darei un po' spazio alla musica. Bene, va bene. Mi ero comunque fermato. Diciamo che la band era formata allora da nomi. Da nomi, ecco, ricordiamole: Frenz Di Cioccio, Pagani, Premoli, Mussida, musicisti dalle qualità tecniche decisamente superiori alla media dei gruppi beat, loro coetanei. Dal beat il loro interesse si sposterà verso il progressive britannico, emerso nella seconda metà degli anni 60, sino a conoscere il suo picco poi di popolarità nella prima metà degli anni 70, con l'affermazione anche anche commerciale di gruppi come King Crimson, Genesis, Jethro Tull, Emerson, Lake & Palmer, Caravan, eccetera, eccetera. Musicalmente loro erano imparentati con i Genesis, i King Crimson e Jethro Tull. Il loro stile musicale era un'alchimia, diciamo un'alchimia molto densa di contaminazioni associata alla musica classica, includendo influenze poi sinfoniche, elementi jazz e complesse orchestrazioni, insomma un genere pretenzioso e con sonorità molto pompose. Il loro esordio risale al 72 con l'album Storia di un minuto. Chiaramente come non potevamo non esimerci dal mandarvi in onda, dal proporvi quello che è stato uno dei il brano, il leitmotiv di questo album, che era Impressioni di settembre. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. Ho quasi paura che si perda. Fermo come me. faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No! Cosa sono? Adesso non lo so. Impressioni di settembre, premiata Forneria Marcore. Abbiamo aperto oggi questa trasmissione del gennaio 2025 con appunto con la premiata Forneria Marcone. Esordiranno con questo album che insieme all'altro poi a breve distanza che si chiamava Per un amico. Per un amico, breve distanza per un amico, sono stati considerati due giganti della discografia progressive italiana. Lavori poi dai tratti ora crimsoniani, ora più vicini ai Genesis, come inciso va però detto che il loro progressive, questo è molto importante, si distacca da quello di altri gruppi, band che si cristallizzavano molto più su temi più sociali e politici, come il Banco del Mutuo Soccorso e gli Area. Per intenderci, loro progressive è più intimista, molto più immaginifico, ricco di immagini, etereo e ricco di metafore. Lodati dalla critica e all'apice del successo, nel 73 poi pubblicheranno Photos of Gods, un album interamente in inglese, affacciandosi sul mercato internazionale, ottenendo considerevoli riconoscimenti di pubblico e critica. Nel 74 arriva l'altro album, capolavoro, si chiama L'Isola di Niente, che ebbe una grande risonanza all'estero, da cui oggi vi proponiamo Dolcissima Maria, che è una ballata spettacolare, incredibile, realizzata con voce e chitarra, in cui poi sono determinanti le parti strumentali impreziosite dal flauto. Sogni che non ricordavi più. Maria, una fantasmagorica ballata della PFM tratta dall'Isola di Niente 1974. Ma andarono in riuscirono a entrare in classifica in America, giusto? Sì, sì, come no. Bene. Io volevo chiudere il cerchio per poi ripassare sulla PFM. Volevo dire che in definitiva la loro discografia è stata sempre costellata da produzioni pregevolissime, anche se in verità qualche album è stato anche snobbato dalla critica. Per converso però hanno avuto una prestigiosa e onorata carriera che poi li proietterà nelle alte sfere della musica, ma la loro storia è stata anche segnata anche da parecchie sostituzioni, defezioni e una fase di riflessione dall'87 al 97. In buona sostanza possiamo affermare che se ne dica, la PFM è ormai una istituzione del prog italiano e la sua avventura oltre i confini nazionali le è valsa anche un posto nell'enciclopedia universale del rock. Volevo concludere, la PFM ha pubblicato nel 2021, perché sono tuttora in attività, l'album I Dreamed Electricity, ho sognato una pecora elettrica, che era il diciottesimo album in studio, da cui vorrei farvi ascoltare Half You Had Wings. I can't choose. Carlo, ti ricorda qualcosa questo? No, io ti devo fare i complimenti perché questo era uno dei brani un po' passati. Sailing, ti ricordi quel sì, grande Sailing di Christopher Cross? Christopher Cross e la Madonna Sogna vero, di Testa. Non Sailing? Sì, sì. è vero. Sì, però no, ti devo fare i complimenti perché questo era un brano completamente, come dire, passato nel entrato nel dimenticatoio dei della PF, cioè un brano recente per quanto mi riguarda è del 2021 proprio l'ultimo, pagato nel dimenticatoio, infatti ho sbagliato, ma proprio non ascoltato, non pervenuto. Una tua lacuna. È una mia laguna. Bene, allora è la volta di Emilio. Sì, è prego. Vero, se, però a questo punto sono loro no scusa sono loro che hanno copiato a Christopher Cross. Bene, dopo questa piacevolissima riproposta di un gruppo storico del progressivo italiano e della bellissima retrospettiva che ci ha proposto Piero, arriviamo a Don Emiddio. Arriviamo a Don Emiddio. No, torniamo a cose più attuali, che sono quelle cose che un po' mi caratterizzano. Io propongo sempre i dischi più recenti. E infatti adesso proporrò un paio di brani dal disco dei Fontaine DC, Romance, disco uscito nel 2024, disco acclamatissimo, tante riviste sia cartacee oppure web, siti web che si occupano di musica l'hanno inserita nelle playlist di fine anno, insomma. E, Carlo, ti ricordi quando abbiamo redatto il abbiamo redatto un paio d'anni fa quel libro sulle musiche ascoltate durante la pandemia, parlavamo del primo disco di Fontaine DC e l'abbiamo piuttosto massacrato. Non tu l'hai massacrato, io mi ricordo che non li ho molto massacrato. No, più che altro facevo notare che era il solito gruppo osannatissimo dalla stampa inglese, Melody Maker eccetera, ma non dalla stampa abruzzese. Di solito succede che poi le riviste italiane, diciamo, scimmiottano un po', no? I giudizi inglesi, e quindi ne avevano parlato in una maniera, l'avevano esaltato quel disco, e a me invece era sembrato molto derivativo, molto ripercorrere un po' gli stilemi della musica new wave, mi sembrava un po' eccessivo. Devo dire che un po' mi sono dovuto ricredere, perché nel frattempo i Fontaines DC hanno fatto altri tre dischi. Ci hanno chiamato, si sono incazzati perché noi... E questo ultimo devo dire che è veramente interessante. Vi propongo un paio di brani appunto da questo lavoro. Il primo si chiama Bug e direi alla regia di mandarlo. Thank you. Emidio, ma hai detto chi so da dove vengono? Lo diciamo. O mi sono distratto? Vabbè, qualche informazione sul gruppo bisogna darla. Allora, queste sono nati nel 2017 a Dublino e pare che sono molto appassionati di letteratura, i componenti, e puntano molto sui testi, infatti, che sono ricchi di immagini, di poesia e slogan. L'elemento di spicco comunque è il frontman, tal Grian Chatten, che è anche un poeta. E il gruppo chiaramente, come dicevamo prima, ha una radice post-punk, una radice new wave molto evidente. Piero diceva anche che se un po' i Rem. Anche se possiamo anche individuare altri riferimenti stilistici, anche i Pogues o anche gli U2. E ci propongono anche un Britpop, wave, alternative rock e folk, per dirla tutta, insomma. Cioè, andiamo anche niente. E questo disco che stiamo presentando, appunto, è l'ultimo, che tra l'altro è stato anticipato da 4 singoli e altre tracce testate dal vivo. E io direi di proporre un ulteriore brano da questo disco per voltare poi pagina. Quindi adesso manderemo in onda In the Modern World. Quindi possiamo dire Irlanda. Diciamolo. Paese di musicisti, poeti e birrai. E bevitori di birra. Birrai. In the city that you like, wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free. When you walk right beside me in the modern world, in the modern world, I don't feel anything in the modern world. I don't feel bad. Charlie, sit on the corner, yeah. Wait for just a minute. Why? Come away with me inside. I promise you'll be in it. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come right in, all by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard just to be. If you matter, you complete me. Yeah. In the modern world, Bene, bene, bene, bene. Allora, siccome ci ho preso gusto anche io nel proporre musica, e siccome qui comando io e quindi faccio quello si fa quello che si dici fa quello tu. Che dico io. No, a parte gli scherzi, no, è vero che ci ho preso gusto, ne parlavamo a microfoni spenti anche. Che comunque questo è un programma che mi dà tanta energia, io il giovedì lo aspetto con veramente con grande trepidanza. Sì, perché comunque mi piace fare questi sorvoli, questi nei meandri della musica, poi con voi che ne sapete tanto, insomma è bello e spero che questa cosa poi naturalmente passi attraverso attraverso le onde di Radio Cernanove, perché vi ricordo state ascoltando sulla radio, ma potrete riascoltare anche su alcune piattaforme. Bravo. Quindi che cosa mi sono ripromesso? Nella settimana mi sono ripromesso poi di rintracciare delle meteore musicali. L'altro giorno, giovedì scorso, ho presentato con grande sarcasmo di Emilio, che mi faceva i sorrisini beffardi alcuni musicisti un po', insomma, passati, e stasera farò la stessa cosa, quindi presentiamo questi che si erano ripromessi di arrivare al successo in 3 anni, ci riuscirono in 2 e poi si sciolsero. Due anni. Stiamo parlando degli House Martins, gruppo inglese con cui, voi non ci crederete, io ho avuto la fortuna di due punti. Non cantare. Aperte le virgolette. Ma di giocare a pallone. Ah. A Giulianova. Vicino al parco Chico Mendez, dove loro andarono a fare un concerto, perché a Giulianova si faceva un bellissimo festival rock. Loro furono all'apice del successo, diciamo, furono perché poi si sciolsero, sì, furono invitati a esibirsi, però qualche dopo il Check Sound noi eravamo lì, questi si portavano il pallone, chi è che voleva fare una partita, insomma, poi è successo quello che è successo, mi sono rimasti nel cuore. Che sono appassionati di pallone, si evince anche dal titolo del loro primo fortunato album. Bravo, bravo, vedete l'esperto, quando esce fuori, amica. Amica, siamo qua a pettinare le bambole. Quindi niente, io direi subito di dare spazio alla musica. I'm place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe I had. Speak a different language and it's never been to me. Don't believe I had. Oh no, cause it's never been to me. What a good place to be. Don't believe I had. Allora, parlavamo del titolo del primo disco, che no. Hall 4 London 0. No, era London 0 Hall 4. Cioè il loro paese che batte la blasonatissima London 4-0. Sì. Come dire, Atri Juventus, Atri 4 Juventus 0. Esatto, perché loro provengono appunto da questo paesino dello Yorkshire molto piccolo, mm-hmm. Che aveva che tra parentesi, ecco, un'altra cosa che poi mi colpì fu il fatto che loro provenivano provenivano dalla chiesa, nel coro della chiesa, e sta cosa la si sente soprattutto nella versione che io vi invito ad andare ad ascoltare, che ebbe un grossissimo successo, sì, un brano vendutissimo, sì, che loro eseguirono a cappella, sì. Esatto. Tutto proviene dal fatto che loro appunto frequentavano la chiesa, quindi questi cori a sonorità. Cappella, queste sonorità che poi ritroviamo anche qui. Che dire, la cosa che colpisce è appunto il fatto che abbiano inciso solamente due dischi, che veramente nel giro di 2 anni loro raggiunsero un grossissimo. C'è anche un terzo successo. Disco, un po' antologico. Sì, però questo è un terzo. Tu dici lì dove ci sono un paio di inediti e di cover di Carole King che loro hanno autorizzato, ma dopo lo scioglimento, alla loro casa discografica, certo. Ma quelli ufficiali appunto sono London 0 Hall 4 e The People Who Greened Thameslet Deed, ecco, della Go Disc, che era quelli che li mise sotto contratto. Poi naturalmente i vari componenti del gruppo sono rimasti un po', come dire, sempre nel campo musicale, soprattutto la voce principale Norman Cook, che poi ebbe un grossissimo successo con il nome di Fatboy Slim, anche qui un ossimoro, no? Fatboy Slim, il ragazzo grasso che è magro, che noi potremmo tradurre. Era lui? Sì. Quello grosso della copertina. Esattamente, che noi potremmo tradurre, no? Il famoso grasso e magro che noi mangiamo. No, conosco benissimo quel disco, non avevo collegato... Ciro se la ride. Andiamo con la musica. Va. Comunque, complimenti per gli House Martin. Molto elegante. La riesumazione. È un Britpop. Beh, qui ci vogliamo sempre nell'ambito della New Wave. Eh sì, però insomma loro sono un po' a fine, un po' a sonanza 80? Anche con 83-84, quindi 86 si sciolsero, 87 si sciolsero. Qualche assonanza anche un po' con The Smiths. Eh sì, è vero. Quella, è benissimo. Vero. Faccio lo speaker DJ ufficiale, naturalmente il primo brano che abbiamo proposto era Happy Hour, il secondo, questo qui che è appena terminato, Think for a Million. Benissimo. Bene. Ecco, vi siete tolti il mio dente, diciamo, adesso ripasso la palla a voi. Dai Piero, rifarci... volare, facci sognare. Sì, continuiamo con questa operazione nostalgia. Io mi riprogetto negli anni 60 sempre in Inghilterra, quindi presenti Loretta Goggi, esattamente, e Lola Falana. No, perché maledetta primavera. Quindi nostalgia. Ci riproiettiamo in Inghilterra appunto per istituire il giusto tributo e prestigio a una formazione iconica, si tratta dei Kinks, una band che ha incendiato la scena musicale negli anni 60 e ha continuato a plasmare il panorama musicale con la loro creatività e il loro spirito molto ribelle. Si formarono nel 63 e a tutt'oggi vengono considerati uno dei più influenti gruppi della British Invasion, quel fenomeno poi musicale in due parole che si sviluppò tra il 64 e il 67, anno in cui poi entrò in crisi la cosiddetta musica beat, soppiantata da altri generi. Ritenuti precursori dei generi garage rock, hard rock, heavy metal, pop psichedelico, nonché del concept disc, il loro successo è stato un'onda travolgente di innovazioni. Irromperanno nel 64 con l'album Kings, ma soprattutto grazie a questo brano roboante che diede vita al concetto moderno di riff chitarristico, che poi ebbe una vasta influenza anche sui gruppi contemporanei come ad esempio i leggendari Who, che l'anno successivo poi esplosero con l'epocale My Generation. Questo brano che abbiamo estrapolato, stranoto, arcinoto, si chiama You Really Got Me. Really Got Me, The Kings. Dicevamo che i Kings comunque hanno esercitato una grandissima poi influenza anche sui gruppi successivi negli anni a venire, come i Valanen, Blur, Oasis, Clash, insomma una gran parte del Britpop. Sono inoltre da annoverare tra gli ideatori del cosiddetto concept album. Il primo infatti si chiamava Face to Face. L'episodio che abbiamo estratto da questo album si chiama appunto Afternoon. And left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this queen. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny Sunny Afternoon, The Kinks. Nel, a proposito, l'hai detto l'anno? L'anno è il 66, l'album di riferimento era Face to Face. Quindi ai nostri ascoltatori un po' più distratti diciamo che naturalmente riascoltando questi brani potranno di certo, come è successo a noi, no? Fare la famosa operazione derivativa di cui spesso parla Emigio. Qui ci sentite tantissimo i Beatles probabilmente, certo. Ma anche poi delle cover e dei richiami nei giri armonici di alcuni gruppi italiani che hanno saltato. Grazie Carlo di questa chicca. No, è vero, poi noi parliamo qui, amico. È innegabile quello che dice, innegabile. Loro sono stati ritenuti tra i primi, i primi dell'album concept nel 68, addirittura poi pubblicheranno una delle prime opere rock che anticipò di un anno l'uscita di quella del celebre Tommy insomma questa era bellissimo disco, questa era l'età, stiamo parlando senza, era l'età d'oro dei Kinks, che abbraccerà un intero decennio. Ma quindi sono stati loro a introdurre per primi il concept album? Sì, sì, proprio con questo Face to Face. Ma io credevo più i... Poi c'era l'album Genesi, che citava Emilia, ma molto prima di Arthur, che diceva, qui c'era molto... c'era elementi di teatro, di... sono stati i primi. Le performance. Le performance, sì. Diciamo che abbraccerà un intero decennio, l'età d'oro dei Kinks, dai primi del 60 ai primi del 70, inanellando una sequela di dischi che pur non diventando dei best sellers, ottennero un riscontro commerciale molto ragguardevole. Anche agli inizi degli 80 segneranno un ritorno con grandi successi commerciali. Però dopo il picco di popolarità raggiunto con l'album State of Confusion dell'83, il riscontro del pubblico iniziò lentamente a calare. Pubblicarono altri dischi senza infamia e senza lode. L'ultimo in ordine cronologico si chiama Fobia del 93. che ne decretò poi lo scioglimento ufficiale. Diciamo in ultima analisi, per chiudere con i Kings, che non si può certamente negare che la loro fama non sia stata pari a quella dei loro connazionali come i Beatles, i Rolling Stones, i Duo, però il loro lascito artistico rimane decisamente incontestabile, insomma, palese. È tutto con i Kings. Bene. Vogliamo tornare a qualcosa di più recente. Risaliamo. Adesso no, a proposito di recente, scusami, dimmi, che dimmi. Ti interrompo, no, per far capire che noi siamo in diretta, no? Che, certo. Siamo, che facciamo una il cosa. Il bello della diretta. E che non facciamo solo. No, volevo sottolineare una notizia che ho preso dall'ANSA, che dice che, non so se lo sapete, ma gli Stati Uniti stanno praticamente mettendo al bando TikTok, che è cinese, dal territorio statunitense, e credo che a giorni bloccheranno tutto. E Bob Dylan che fa oggi? Apre il suo profilo TikTok, mette dentro delle storie con la sua musica, dei suoi video. Quindi anche in questo caso Bob Dylan, grande musicista, artista, premio Nobel, no, fa controcorrente. Voi chiudete TikTok e io apro il profilo su TikTok. Scusa. No, ci mancherebbe. E dicevo, adesso io direi di sentire un po' di sano blues. Siete d'accordo? Sì. Allora, usa la tua cosa. Sì. Allora, io vorrei proporvi un paio di brani dall'ultimo disco recentissimo del 2024 di Eric Bibb. Eric Bibb è nato a New York nel 1951, quindi di annetti ne ha pure lui parecchi, quindi fare un po' tutta la cronistoria di questo grosso artista sarebbe anche troppo lungo. Voglio ricordare soltanto che lui è autore di circa 40 album, sicuramente il suo blues non è un blues proprio canonico, è aperto a molte influenze. Lui nelle interviste l'ha sempre detto che all'inizio della sua carriera è stato folgorato dai dischi di Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger, e il suo stile, il suo modo di cantare si rifà anche a grossi nomi come Richie Evans, Taj Mahal, tanto per citare un po' di nomi. Questo secondo me è un po' un nostro vizio, no? Quello di descrivere gli autori citando tanti altri si avvicinano. E questo ultimo disco si chiama In the Real World. Pare che sia stato inciso proprio nella casa discografica di un piccolo vuoto mentale. Vedi, da qui poi Peter Gabriel. E il primo brano che vi propongo è proprio un blues abbastanza classico, si chiama King of the Castle. Used to be the night watchman at a big studio. Pandemic hit, they let me go. Couldn't find work, Lord knows I tried. Before I knew it, I was living outside. My home is this castle, welcome to the neighborhood. Castle made of cardboard, down in Hollywood. Came out here from Texas back in 73, had a cousin in Venice, let me stay for free. Then I got drafted, sent me over there. War's truly hell, more than I could bear. A lifetime ago, somehow I made it back. Though it never felt like home, something inside me cracked. Had a wife and two boys back in the day, but all my drinking drove them away. Now my home is this castle, welcome to the neighborhood. cast are made of cardboard down in Hollywood. Still got my guitar, still got the blues, got pictures in my wallet, hope I never lose. Tried to live in the shelters, too crowded for my taste. People steal your stuff, I needed more space. Underneath this freeway, it's where I now reside. King of the castle, I still got my pride. So when you write your story about this neighborhood, call me the king of the castle down in Hollywood. Volevi commentare, no, Carlo? No, prego. No, io semplicemente ero d'appoggio a te sulla chiusura del brano. Allora, io vorrei ricordare una cosa, un plauso al nostro amico Vincenzo, che, è vero, che portò Eric B. Badatri in una edizione del Green Hills in Blues. Credo di aver Grazie fatto Vincenzo. Anche delle foto in quell'occasione, Eric B. Bene, un ultimo brano tratto da questo ultimo disco che mi sembra particolarmente riuscito, in effetti. Ispirato, sì. E il prossimo brano è particolare perché, oltre ad avere, diciamo, le influenze blues che lo caratterizzano, ci trovo anche un clima proprio nella ritmica, nello svolgimento, un clima africano. Il brano si chiama If There's Any Rule. Born to father, it's love each other. If any rule's gonna guarantee tomorrow, it's love. Let's consider the plight of a beggar, bowed in pain, thinking about children in danger, where bullets fall like rain. In a world where big money buys the laws, when wrong's all right and right is wrong, if there's any room we're born to father, it's love each other. If any rule's gonna guarantee tomorrow, get out, let's get real, we're at the edge. In a world where justice depends on the size of your cash, in a world where the color of your skin determines who's left out, who gets in. If there's any just a bit more. And Julia, I couldn't do much better than you. You said so yourself. Wouldn't want anyone else. And I can't live without your love. Part of your plans, or just a man while your dreams be, or just a part of me. Oh, please see how much, well, how much you mean to me. Oh, please see how much, well, how much you mean to me, Julia. Questa è la mia seconda proposta, diciamo, che di certo per quelle un po' più che hanno seguito la musica, così mi fate morire, dicevo, il vibrato androgino, perché questo è un gruppo, e sto parlando dei Pavlov's Dog, americani. Perché sottolineo queste cose? Perché questo gruppo, che intanto mi fece conoscere Emidio, mi ricordo, se voi sentite... Tanto per cambiare le melodie, un po' anche è un gruppo progressive che però sembra... C'è tutta una diatriba su questa cosa. Di stampo inglese. Considerarli però. Prog per qualcuno è una bestemmia. Sì, poi c'è chi parla di folk, c'è chi parla di... insomma... Però no, volevo porre l'accento sul fatto che in effetti la musicalità sembra parlare di un gruppo inglese, parliamoci chiaramente. Tant'è vero che questa cosa è voluta da parte loro. Innamorati del sì, sound inglese, chiaramente. Sì, sì, e si sente. Poi ci... La voce? Sì, infatti è un... Ma infatti è un... Acrobazie vocali. È un gruppo un po' mitico, rimasto nel... Però non si sapeva, ma questa sarà una donna, sarà un maschio, e poi si scoprirà un maschio. Poi uscirono anche altre notizie, vi ricordate che lui era morto, invece dopo lo scioglimento era andato a suonare addirittura con un altro gruppo che faceva da spalla ai Beach Boys, pensate un po' voi. Insomma, è un gruppo su cui ha aleggiato sempre questo alone di mistero, di... però è un gruppo che colpì al cuore. Nel 74 loro iniziarono nel secondo disco invitarono il batterista di King Crimson, bravo, sì. E comunque, ripeto, stiamo parlando di un gruppo che al primo ascolto fu veramente impressionante. Mi ricordo che nella nostra cittadina quando Emigio scoprì questo gruppo con questo brano qui, quando riportai i dischi ad Atri e poi cominciarono a girare le cassette che ho ritrovato io adesso dopo 40 anni e più, e le persone impazzirono. E mi ricordo un altro episodio, che io portai queste cassette, quindi le portai all'università, io stavo a Urbino, studiavo a Urbino, e chiunque veniva dei miei amici non conoscevano, questo gruppo era praticamente sconosciuto, e cominciarono a circolare pure all'interno dell'università come gruppo cult, gruppo mitico. Sì, sì, mi telefonavano. No, io citavo sempre te, veramente, ma guarda, veramente, questo è stato... Poi la più grande gaffe che ho fatto negli ultimi anni, stiamo parlando di 15-16 anni fa, vado a Londra e mi invitano in un locale di Soho, un locale un po' alto locale, ci mettiamo a parlare e io cominciai a sfoggiare la mia conoscenza, e io credevo che questi fossero conosciuti almeno a Londra, no? Dicevo, ma conoscete Paolo Sdog? Conoscete questi qua? Mi guardavo e dicevo, no, ma chi senti, è? Di chi sono? Oh, naturalmente Paolo Sdog, i cani di Pavlov. Pavlov era questo grande psicoanalista, scienziato. No? Scienziato, che ha poi scoperto i cosiddetti riflessi incondizionati. Ma li torturava quei poveri cani? No, questo è il solito discorso, c'ho l'acquolina in bocca, no? Quando tu vedi, e lui scoprì che questo era un riflesso che i cani, no, questi quando... esperimenti che faceva con i cani, no, erano... non credo. No, è uno dei padri veramente della psicologia grande. E loro hanno fatto questo tributo, vabbè, andateveli a scoprire, a sentire, e noi vi mandiamo un altro brano e chiudiamo questa parentesi pavloviana. Angeline sits in a lavender garden, sipping her water, browsing her books, ranging the lines that are rolling around in her head. Angeline leans on her chemical dreams, down in the garden, browsing her looks. She makes you crazy and think that she's out of her head. Angeline visits from somewhere out on the coast. Go with her anywhere while she's removing her robe. Angeline says, I heard you were dead, singing your song somewhere across the ocean. Join the dead poets where you knew that you've always belonged. I replied in a whisper, I'm still quite alive, writing my songs in perpetual motion. Angeline smiles, asks me to join her in bed. From somewhere out on the coast, go with her anywhere while she's just jotting down notes. Oh, Angeline, goodbye, Angeline. Angeline waits in a calico room, sipping a wine in a lavender garden, combing the doorways and cobwebs filling her head. And Angeline begs you for the morning, in her hand, make the most of her offer. You stay too late, spend the night lost in a bed. Angeline dreams about someone out on the coast, and you'd go with her any day, let her believe what she's not. Angeline, da un tardo disco dei Power Dog, noi siamo dei tardi del 2010. Del 2010. Beh, ed sì, è bello notare che la voce sì, è sempre è rimasta pressoché identica, a dispetto lì, degli anni. Io ci ho fatto qualche studio, no, sulla voce di David Surkamp. Lui è un grandissimo... Vabbè, c'è una nota naturale, lui canta in falsetto, lo potete capire, però c'ha tanta tecnica che gli permette poi di prendere quelle note lì, di arrivare a quelle vette lì. Insomma, stiamo parlando di uno veramente bravo e stiamo parlando appunto di, io lo ripeto, dei Pavlov's Dog, di questo gruppo un po' sembra misterioso che... Qualcuno una volta aveva morto appunto il cantante, qualcuno si sono sciolti, poi però insomma ecco come vedete nel 2010, ma se andate a vedere la discografia sono ancora, anzi diciamo che è ancora vivo e vegeto il cantante, perché come dicevamo a microfoni spenti tutto ruota intorno a lui e alla sua timbrica, giusto? No, c'è un po' di mito da sottolineare, che dopo i mitici primi due dischi loro scomparvero effettivamente dalla scena, e mi ricordo che le riviste specializzate ogni tanto venivano fuori con ed ecco il terzo misterioso disco di Pavlov's Dog che non usciva mai. No, ma è il terzo disco di Pavlov's Dog, da quello che sì, poi uscì. Sì, prima uscì in versione bootleg addirittura, poi finalmente... La leggenda fu pubblicato vuole, ufficialmente. Sì, ma la leggenda vuole che poi era dovuta ai dissidi, perché poi certo il successo non è che fa sempre bene, no? A un gruppo. Erano in sette dentro, quindi sette teste, sai, non è semplice mettere d'accordo tutti. Vabbè, ma come dicevamo a microfoni spenti, i Pavlov's Dog erano rappresentati dal cantante che ne incarnava un po' l'anima. Infatti il gruppo è, dice, Pavlov's Dog, un solo cane, quindi il cane di Pavlov. Bene, allora speriamo di aver fatto conoscere a tante persone che non... che non li conosceva questo gruppo mitico. Ma tu li ascoltavi? Come no? Ah, perciò. Siamo in perfetto orario, stasera ci siamo veramente, siamo stati bravi, bravissimi, tutti bravi, e speriamo che insomma la cosa sia gradita, e quindi vi diamo appuntamento al prossimo giovedì con altre chicche. Però non ricordiamo mai che questo programma si chiama Musical Box. È vero. Dai microfoni di Radio Cerrano Web. È vero, vabbè, ma abbiamo lo stacchetto, poi facciamo rimandare lo stacchetto. Alla fine rimanda lo stacchetto, va bene? No, niente. Allora Piero, salutiamo i nostri radioascoltatori. Ci vediamo al prossimo. appuntamento a giovedì prossimo. Sì, sì. In settimana noi studieremo. Sì, avvicini dal microfono. Buona serata. Buona serata a tutti. Abbraccioni a tutti.